Terzo anello, ad alta voce. L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Sembra che abbiate molto da dirvi, osservò Silver mentre con la coda dell'occhio seguiva i suoi turbolenti compagni. Sputatela fuori, che la senta anch'io. O mettetevi l'animo in pace. Scusatemi, capitano, rispose uno di loro. Voi tirate troppo via su qualcuna delle nostre regole. Voglio sperare che degnerete di uno sguardo le altre. Questa ciurma è malcontenta. Questa ciurma non intende farsi tiranneggiare. Scusatemi, capitano. Per il momento vi riconosco come capitano. Ma reclamo i miei diritti e me ne vado fuori a tener consiglio. I rimasti seguirono uno dopo l'altro il suo esempio, ciascuno salutando al passaggio, ciascuno aggiungendo qualche scusa. Conforme ai regolamenti, disse uno. Consiglio di prua, disse Morgan. E così con questa o quella osservazione uscirono tutti, lasciandoci soli con la torcia, Silver e io. Il cuoco di bordo si tolse immediatamente la pipa di bocca. E ora ascolta, Jim Hawkins, disse con voce ferma, ma appena avvertibile. Tu sei a un pelo dalla morte e quel che è ben peggio dalla tortura. Non stanno per destituirmi, ma prendine nota, io otterrò per te, vada come vuole. Non la pensavo così, no, davvero, prima di averti ascoltato. Ero pressoché alla disperazione di perdere quel mucchio di quattrini ed esser per giunta impiccato. Ma ho visto che hai stoffa e mi sono detto, tu sostieni Hawkins e Hawkins sosterrà te. Tu sei la sua ultima carta. E tuoni e fulmini, John, lui è la tua. Spalla a spalla, dico io, tu salva il tuo teste e lui salverà la tua testa. Cominciavo debolmente a capire. Volete dire che tutto è perduto? Chiesi. Ma sì, voi ad un mondo, che devo dirlo? Rispose. Partita la nave, partita la testa. Questo è il nocciolo. E quanto a questa banda e al loro consiglio, prendine nota. Sono scemi più che mai, nonché vigliacconi. Io salverò la tua vita se mi riesce da loro. Ma vada bene, Jim, pari e patta. Tu devi salvare Long John dalla forca. Rimasi sgomento. Mi pareva così disperato quanto mi chiedeva. Lui, il vecchio filibustiere, il caporione di tutto. E quel che potrò, farò, dissi. Spillò un po' di cognac dal barilotto in una tazzina di stagno. Ho bisogno di tirarmi su, perché c'è del torbido in giro. E a proposito di torbido, come mai il tuo dottore ha dato a me la carta, Jim? Il mio viso espresse uno stupore così genuino che vide l'inutilità di ulteriori domande. Perché data? Me l'ha data, disse. E c'è sotto qualcosa, non c'è dubbio. Qualcosa c'è sotto, sicuramente. Di buono o di cattivo. Il consiglio dei pirati durava da un pezzetto quando uno di loro rientrò nella casa e, ripetendo lo stesso saluto che ai miei occhi assumeva un certo sapore di ironia, chiese in prestito la torcia per un momento. Silver consentì laconico e il mandatario si ritirò, lasciandoci insieme al buio. «Eccoli!» disse riprendendo la mia posizione, perché mi pareva al di sotto della mia dignità farmi sorprendere a spiarli. «Va bene, ragazzo mio, lasciali venire!» disse Silver allegramente. «Ho ancora una carta da giocare!» La porta si aprì e i cinque uomini raggruppatisi insieme appena dentro spinsero avanti uno di loro. «Fatti avanti, giovanotto!» gridò Silver. «Non intendo mica mangiarti. Da qua, marinaio d'acqua dolce, conosco i regolamenti e mi guarderei bene dall'offendere una deputazione!» Così incoraggiato il pirata avanzò più sollecito e dopo aver passato qualcosa a Silver da mano a mano scivolò via tra i compagni più sollevato. Il cuoco di bordo diede un'occhiata a quanto gli era stato consegnato. «Il marchio nero! Me l'aspettavo!» disse. «Ma da dove diavolo avete tirato fuori quella carta?» «Oh, guarda questa! Vi porterà scalogna Siete andati a strapparla una Bibbia. Ma chi è quello scemo che ha strappato una Bibbia? Ma a questo punto lo spilungone dagli occhi gialli si mise in mezzo. Mando le ciance, John Silver, disse. Questa ciurma ti ha bollato col marchio nero a pieni voti, come di regola. Tu volta la pagina come di regola e guarda cosa c'è scritto dietro. Dopo potrai parlare. «Grazie, George», rispose Silver. «Sei sempre stato un asso per gli affari, tu, e i regolamenti li sai a memoria, come ho piacere di constatare. Beh, di che si tratta, dunque? Destituito, è così, non è vero? È scritto in una così bella grafia da parer quasi stampato. È calligrafia tua, George? Sarai tu, dunque, il capitano di questa ciurma?» «Alla finita, ora», disse George. «Sarebbe tempo di smetterla di prendere in giro questa ciurma. Mi era parso di averti sentito dire che conoscevi i regolamenti.» «Credevo che li conoscessi tu, i regolamenti», replicò Silver sprezzante. «Però se non li sai tu, li so io. E io rimarrò qui, perché sono ancora il vostro capitano, finché non mi abbiate presentato i vostri reclami e io non vi abbia replicato. Nel frattempo, il vostro marchio nero non vale una cicca. Dopodiché vedremo.» «Oh!» replicò George. «Non devi avere la minima apprensione. Siamo tutti d'accordo, tutti. Capo primo ci hai messo in un mare di guai con questa spedizione e dovresti essere uno sfacciato per negarlo. Secondo, senza alcuna ragione hai lasciato uscire i nemici da questa trappola. Perché volevano andarsene? Non lo so io, ma è più evidente che lo desideravano loro. Terzo, non ci hai lasciati saltar loro addosso mentre si ritiravano. Oh, per noi sei trasparente, John Silver. Tu vuoi fare il doppio gioco. È lì che hai torto. E poi, quarto, c'è questo ragazzo qui. Ebbene, ora ascolta me. Voglio rispondere a questi quattro punti uno dopo l'altro. E risponderò a tutti. Dite che vi ho messi in un mare di guai con questa spedizione, no? Ecco, vediamo. Voi tutti sapete che cosa volevo. E voi tutti sapete che se tutto fosse stato fatto a modo mio, stanotte saremmo stati a bordo della Hispaniola, tutti al completo, e in gamba e rimpinzati di ottima torta di prugne e col tesoro nella stiva per la galera. Ebbene, chi mi ha scavalcato? Chi mi ha forzato la mano mentre ero il legittimo capitano? Chi mi ha appioppato il marchio nero lo stesso giorno che siamo scesi a terra e ha iniziato questo balletto? Chi è stato a metterlo in opera? Chi? Anderson è stato, e Hans, e tu, George Merry, e tu, l'ultimo di bordo di quella ciurma di cospiratori, tu devi avere la diabolica insolenza di ergerti a capitano al mio posto? Tu che ci hai colati tutti quanti a picco per la galera? Ma questa le batte tutte!» Silver sostò, e io potei constatare sui visi di George e dei suoi compagni che queste parole avevano colto nel segno. «A questo punto ci troviamo tutti noi, grazie a lui, Hans, Anderson e altri imbecilli della vostra risma. E se volete una risposta circa il quarto punto, questo ragazzo, ma via, mi piglio un accidente o non è un ostaggio? E dovremmo forse perdere un ostaggio? Potrebbe essere la nostra estrema risorsa, non mi meraviglierebbe affatto. Ammazzare questo ragazzo? Io no, compagni. E il numero tre? Ebbene, sul numero tre c'è poco da dire. Può darsi che non vi faccia comodo avere un autentico medico laureato che viene a visitarvi ogni giorno. E forse non sapete che può aggiungere un'altra nave di appoggio. Ma c'è, e non tarderà molto, e vedremo chi sarà contento di avere un ostaggio quando sarà il momento. E quanto al numero due, al perché sono sceso a patti. Ma se siete stati voi, se siete stati voi, strisciando in ginocchio davanti a me, a portarmici! In ginocchio siete venuti, tanto eravate sfiduciati, e avreste per giunta patito la fame se non l'avessi fatto. Ma questa è un'inezia. Guardate qui. Ecco il perché l'ho fatto. E gettò sul pavimento una carta che riconobbi all'istante. Non altro che quella stessa carta ingiallita con le tre croci rosse che avevo trovato avvolta nell'incerato in fondo alla cassa del capitano. Il che poi il dottore gliel'avesse data superava la mia immaginazione. L'apparizione della carta, se era inspiegabile per me, era incredibile per i superstiti rivoltosi. Vi balzarono sopra come gatti sul topo, passò di mano in mano e ognuno la strappava all'altro, e dalle bestemmie, dalle grida e dalle risa infantili con le quali accompagnavano il loro esame, avreste pensato non solo che stessero palpando l'oro vero, ma che fossero già al largo, col tesoro, e per di più al sicuro. «Sì», disse uno, «quella è la firma di Flint senza fallo, JF, con lo svolazzo sotto, e un nodo a chiodo su quello, così faceva sempre!» «Magnifico!» disse George, «ma come faremo a portarcelo via? Senza nave!» Silver si alzò di scatto e appoggiandosi con una mano contro il muro, «Ultimo avviso a te, George!» gridò. «Un'altra sola di queste tue insolenze e ti invito fuori a batterci. Come faremo? Come posso saperlo io? A te toccava sapermelo dire, a te e agli altri che mi avete tolto la mia goletta con i vostri contrasti, Dio vi fulmini! Ma tu no, tu non puoi saperlo, tu che hai l'immaginazione di uno scarafaggio. Però parlare educato puoi e dovrai, George Merry, stanne certo. Questo è abbastanza giusto, disse il vecchio Morgan. Giusto, lo credo bene, disse il cuoco di bordo. Voi mi avete perso la nave. Io ho trovato il tesoro. Chi vale di più? E ora sono io che do le dimissioni per la galera. Eleggetevi chi vi pare e piace per capitano, ora che io non ne voglio più sapere. Silver! Urlarono. Barbecue per sempre! Barbecue nostro capitano! Abbiamo cambiato idea, gridò il cuoco. E ora, compagni, questo marchio nero non serve più a molto, no? Dick ha compromesso la sua fortuna e sciupato la sua Bibbia. Ecco tutto! Questa fu la fine dell'avventura notturna. Poco dopo, passata in giro l'acquavite, eravamo distesi a dormire. E il segno esteriore della vendetta di Silver consistette nel mettere George Merry di guardia, minacciandolo di morte se fosse risultato traditore. Fui svegliato, o meglio, fummo svegliati tutti, perché vidi anche la sentinella riscuotersi dallo stipite della porta dove si era appoggiata, da una voce chiara e cordiale che ci chiamava dal margine del bosco. «Olà, Fortino!» gridava. «Ecco il dottore!» Era proprio lui. E quantunque mi avesse rallegrato riudir quella voce, pure la mia allegrezza non fu senza preoccupazione. Mi ricordai confusamente della mia insubordinata e subdola condotta, e considerando dove mi aveva portato, tra quali compagni e tra quali pericoli, mi vergognai di guardarlo in viso. «Voi, dottore! Buon principio di giornata!» gridò Silver completamente sveglio e raggiante di buon umore all'istante. «Svelto e mattiniero, manco a dirlo! E abbiamo per voi un'autentica sorpresa, signore!» continuava. «Abbiamo qui un piccolo forestiero, un nuovo pensionante, nonché inquilino, signore, vispo e sano quanto un pesce, dormito come un masso ha dormito, steso accanto a John, fianco a fianco, tutta la notte!» Il dottor Livesey aveva intanto scavalcato la palizzata e si era trovato proprio accanto al cuoco e potei cogliere l'alterazione della sua voce mentre diceva: «Non sarà mica Jim!» «Lui, nato e sputato!» rispose Silver. Il dottore si fermò su due piedi, però senza parlare, e passarono alcuni secondi prima che fosse in grado di riprendere il cammino. «Bene, bene», disse alla fine. «Prima il dovere e poi il piacere, come avreste detto voi stesso, Silver. Esaminiamo un po' questi pazienti». Un momento dopo era entrato nel fortino, e con un furtivo cenno del capo verso di me procedeva alla sua visita ai malati. I suoi modi, credo, influissero su quegli uomini, perché si comportavano con lui come se niente fosse accaduto, come se lui fosse ancora il medico di bordo e loro fossero ancora fedeli marinai. Thank you. Vedete, dato che sono il medico degli ammutinati, o per meglio dire il medico delle prigioni, disse il dottor Livesey col suo tono più faceto, mi faccio un punto d'onore di non defraudare di un solo uomo Re Giorgio, Dio lo benedica, e la forca. Dunque, aggiunse dopo aver distribuito le dosi tutto all'ingiro e dopo che ebbero ricevuto le sue prescrizioni con un'umiltà assai comica, piuttosto da alunni di un asilo di carità che da quei sanguinari pirati rivoltosi che erano. Dunque, anche per oggi è fatta. E ora desidererei fare due chiacchiere con quel ragazzo lì, se non vi dispiace. E accennò col capo nella mia direzione, con noncuranza. George Merry era sulla soglia che si gargarizzava e sputacchiava a causa una qualche medicina di cattivo sapore, ma alle prime parole di questa proposta si rigirò con un gran balzo e strillò. «No!» con un'imprecazione. Silver picchiò sul barile a mano aperta. «Silenzio!» ruggì e girò intorno un'occhiata da leone. «Dottore!» continuò col suo tono abituale. «Ci stavo proprio pensando!» Sapendo che avete il ragazzo in simpatia. Siamo tutti umilmente riconoscenti per la vostra gentilezza e come vedete abbiamo fiducia in voi e ingurgitiamo le vostre medicine come fossero altrettanti punch e credo di aver trovato una soluzione soddisfacente per tutti. Hawkins, ti senti di darmi la tua parola d'onore da quel giovane gentiluomo che sei, anche se nato povero, la tua parola d'onore che non taglierai la corda? Io mi affrettai a dare l'assicurazione richiesta. E allora, dottore, disse Silver, voi scavalcate questa palizzata e quando sarete al di là io condurrò il ragazzo laggiù, all'interno, e credo che potrete discorrere attraverso lo steccato. Buongiorno a voi, signore, e i nostri ossequi al cavaliere e al capitano Smollett. L'espressione di disappunto che solo le occhiate minacciose di Silver avevano trattenuto scoppiò irrefrenabile non appena il dottore ebbe lasciato la casa. Silver fu apertamente accusato di far doppio gioco. Ma valeva da solo il doppio di loro, e la sua vittoria della sera prima gli aveva dato un netto predominio sulla loro mentalità. Li chiamò tutti quanti imbecilli e somari. Disse che era indispensabile che io parlassi con il dottore, sventagliando loro la carta sotto il naso e chiedendo se avrebbero osato venir meno ai patti lo stesso giorno in cui si erano impegnati a cercare il tesoro. Poi impose loro di accendere il fuoco e arrancò con me appoggiandosi alla stampella con una mano sulla mia spalla, lasciandoseli dietro più disorientati e zittiti dalla sua loquacità che convinti. «Adagio, figliuolo, adagio», mi andava dicendo, «ci salterebbero addosso in un battibaleno se ci vedessero frettolosi». Così avanzammo lentamente attraverso la sabbia, fin dove il dottore ci aspettava, al di là della palizzata. E non appena fummo a portata di voce, Silver si fermò. «Vorrete prender nota anche di questa, dottore?» disse. «E il ragazzo vi racconterà come io gli abbia salvato la vita e sia stato per questo destituito. Dottore, quando un uomo naviga contro vento come me, giocandosi fino all'ultimo respiro, non potreste forse concedergli una parola buona? Mi farete il piacere di tener presente che ora non si tratta più solo della mia vita, ma anche di quella di questo ragazzo. Vorrete parlarmi gentilmente, dottore, e darmi un briciolo di speranza per poter tirare avanti, per misericordia?» Silver era cambiato, non appena volte le spalle ai compagni e al fortino. Sembrava che le guance gli fossero rientrate. La voce gli tremava. Mai avevo visto un'anima così totalmente affranta. «Toh, John, non avreste per caso paura?» fece il dottor Livesey. «Non sono un vigliacco, dottore, no. Nemmeno tanto così.» E fece schioccare le dita. «Se lo fossi, non avrei parlato a questo modo. Ma, lo confesso francamente, il pensiero della forca mi mette i brividi addosso. Voi siete buono, siete leale, il miglior uomo che abbia mai incontrato. E non dimenticherete quel che ho fatto di bene, come non dimenticherete quel che ho fatto di male. Ora mi ritiro in disparte, guardate, e vi lascio soli, voi e Jim, soli. Piero Baldini ha letto L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Riduzione Giovanni Piccioni. Regia Adelchi Battista. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.